Il testo che sto per leggere è tratto da Introduzione alla psicoanalisi, è una delle lezioni che Freud tenne nei semestri invernali tra il 1915 e il 1917 in un'aula della clinica psichiatrica di Vienna, dinanzi ad ascoltatori provenienti da tutte le facoltà. La lezione è la numero 33, si trova a pagina 513 nell'edizione Bollinghieri, e ha come titolo La femminilità. Saltando una breve introduzione, leggiamo direttamente quello che Freud dice davanti ai suoi colleghi. Sull'enigma della femminilità, gli uomini si sono lambiccati in ogni epoca il cervello. Neanche gli uomini che sono tra voi si saranno sottratti a questo rompicapo. Dalle signore qui presenti non ci aspettiamo questo, esse stesse rappresentano questo enigma. Maschile o femminile è la prima distinzione che fate allorché incontrate un altro essere umano e siete abituati a fare questa distinzione con assoluta sicurezza. La scienza anatomica condivide la vostra sicurezza in un punto e non molto più in là. Maschile è il prodotto sessuale maschile, lo spermatozoo e il suo portatore. Femminile è l'uovo e l'organismo che lo ospita. In entrambi i sessi si sono formati organi che servono esclusivamente alle funzioni sessuali e che si sono verosimilmente sviluppati dalla stessa disposizione, assumendo due diverse conformazioni. In entrambi, inoltre, gli altri organi, le forme del corpo e i tessuti mostrano un influsso da parte del sesso, ma l'influsso è incostante e la sua entità variabile. Si tratta dei cosiddetti caratteri sessuali secondari. A questo punto la scienza vi dice alcune cose che contrastano con le vostre aspettative e che probabilmente sono destinate a confondere i vostri sentimenti. Vi fa osservare che parti dell'apparato sessuale maschile si riscontrano anche nel corpo della donna, benché in stato atrofizzato, e viceversa. In questa presenza, essa vede un indizio di bisessualità, come se l'individuo non fosse uomo-donna, ma sempre l'uno e l'altra, e solo un po' più l'uno o l'altra. C'è qui un invito a familiarizzarvi con l'idea che la proporzione in cui il maschile e il femminile si intrecciano nell'individuo è soggetta a oscillazioni assai rilevanti. Tuttavia, poiché in una persona, se si escludono casi rarissimi, sono presenti prodotti sessuali di una sola specie, uova o cellule seminali, non potrete fare a meno di mettere in dubbio il significato fondamentale di questi elementi e trarre la conclusione che ciò che costituisce la mascolinità o la femminilità sta in un carattere sconosciuto, che l'anatomia non è in grado di cogliere. Può forse farlo la psicologia? Siamo avvezzi a impiegare maschile e femminile anche come qualità psichiche e abbiamo parimenti trasferito nella vita psichica la nozione di bisessualità. Di una persona, sia esso maschio o femmina, diciamo che in una certa situazione si comporta in modo maschile, in quell'altra in modo femminile. Ma vi renderete conto ben presto che ciò significa semplicemente arrendersi all'anatomia e alla convenzione. Non potete dare alcun nuovo contenuto ai concetti di maschile e femminile. La distinzione non è psicologica. Quando dite maschile, di regola intendete attivo, e quando dite femminile, intendete passivo. Ora è vero che una relazione di questo tipo esiste. La cellula sessuale maschile è mobile e attiva, cerca quella femminile, e questa, l'uovo, è immobile, attende passivamente. Questo comportamento degli organismi sessuali elementari costituisce addirittura il paradigma per la condotta degli individui nel rapporto sessuale. Il maschio insegue la femmina allo scopo dell'unione sessuale, l'assale, penetra in lei. Ma con questo avete per l'appunto ricondotto, per quanto concerne la psicologia, il carattere della mascolinità al momento aggressivo. Il dubbio di non aver colto in tal modo nulla di essenziale sarà inevitabile, se considerate che in alcune categorie di animali le femmine sono più forti e aggressive, mentre i maschi sono attivi unicamente nell'atto dell'unione sessuale. È il caso, per esempio, dei ragni. Anche le funzioni di covare e di allevare, le quali ci appaiono così squisitamente femminili, non sono negli animali regolarmente connesse al sesso femminile. In specie molto elevate si osserva che i sessi si dividono il compito di covare o perfino che vi si dedica soltanto il maschio. Persino nel campo della vita sessuale umana vi accorgerete ben presto quanto sia inadeguato far coincidere il comportamento maschile con l'attività e quello femminile con la passività. La madre è attiva in ogni senso nei riguardi del suo bambino. L'atto stesso dell'allattamento si può indifferentemente concepire tanto in modo attivo come allattare, quanto in modo passivo come lasciarsi succhiare il latte. Quando più vi allontanate poi dallo stretto campo sessuale, tanto più chiaro diventa questo errore di sovrapposizione. Le donne possono esplicare una grande attività in diverse direzioni. Gli uomini non possono convivere con i loro simili se non sviluppando in altro grado la passiva arrendevolezza. Se adesso mi dite che questi fatti contengono precisamente la prova che tanto gli uomini quanto le donne sono bisessuali in senso psicologico, ne deduco che dentro di voi siete decisi a far coincidere attivo con maschile e passivo con femminile. Ma ve lo sconsiglio, a mio parere questa distinzione è inadeguata e certo non ci insegna niente di nuovo. Si potrebbe pensare di caratterizzare psicologicamente la femminilità con la preferenza per mete passive. Il che naturalmente non è la stessa cosa della passività. Per realizzare una meta passiva può essere necessaria una grande dose di attività. Forse succede che nella donna una predilezione per il comportamento passivo e per aspirazioni passive, derivanti dal ruolo che le è riservato nella funzione sessuale, si protenda nella vita più o meno ampiamente, secondo i limiti circoscritti o estesi in cui la vita sessuale funge da modello. Dobbiamo però stare attenti a non sottovalutare l'influsso degli ordinamenti sociali, che parimenti sospingono la donna in situazioni passive. Tutto ciò è ancora molto oscuro. Vi è una relazione particolarmente costante tra femminilità e vita pulsionale, che non vogliamo trascurare. Nella donna la repressione dell'aggressività, così come le è prescritto dalla sua Costituzione, e imposto dalla società, favoriscono lo sviluppo di forti impulsi masochistici, i quali, come sappiamo, riescono a legare eroticamente le tendenze distruttive rivolte all'interno. Il masochismo è dunque, come si vuol dire, schiettamente femminile. Se però, come tanto spesso avviene, riscontrate il masochismo negli uomini, che altro vi resta da dire se non che questi uomini mostrano tratti femminili molto evidenti? Avete ormai capito che neppure la psicologia è in grado di sciogliere l'enigma della femminilità. La spiegazione deve venire da qualche altra parte e non può venire se prima non abbiamo appreso come abbia avuto origine in genere la differenziazione degli esseri viventi in due sessi. Nulla sappiamo in proposito. Pur essendo l'esistenza dei due sessi un carattere assai appariscente della vita organica, mediante il quale essa si distingue nettamente dalla natura inanimata. Frattanto, conteniamoci di studiare quei caratteristici individui umani che per il fatto di possedere genitali femminili sono manifestamente o prevalentemente femminili. E conforme alla natura della psicanalisi proporsi non già di descrivere ciò che la donna è, che sarebbe un compito forse superiore alle sue forze, ma di indagare il modo in cui essa diventa tale, il modo in cui dalla bambina che a disposizione bisessuale si sviluppa la donna. Negli ultimi tempi abbiamo appreso qualcosa su questo argomento, grazie alla circostanza che parecchie nostre esimie colleghe psicanaliste hanno cominciato a lavorare intorno a questo problema. La discussione è stata particolarmente stimolante a causa della diversità dei sessi, poiché ogni qualvolta un confronto sembrava andare a scapito del loro sesso, le nostre analiste potevano esprimere il sospetto che noi analisti non avessimo superato certi pregiudizi profondamente radicati contro la femminilità e li scontassimo quindi con la parzialità della nostra ricerca. A noi, per conto, era facile evitare, invocando la bisessualità, ogni scortesia. Non avevamo che da dire, questo non vale per lei, lei è l'eccezione, essendo su questo punto più maschile che femminile.